corposo, quindi non mi dilungherei in introduzioni troppo elaborate e articolate, preferendo passare di corsa alla lettura. Quindi riprendo dal paragrafo o capitolo, come preferite, 5. Dicevi e argomentai a tenera amata che stiamo vivendo al ritmo di 1.000.000esimi di picosecondo, l'abbiamo visto la volta scorsa questo. Se è così, ci troviamo in un movimento la cui frequenza deve essere milioni di volte inferiore al movimento di rotazione sulla Terra. Allora vuol dire che siamo molto vicini all'immobilità assoluta. Forse ci avviciniamo al nulla. Non ti inquietare. Stiamo molto lontani dall'immobilità assoluta. Ricorda l'esempio classico della teoria della relatività. Se una macchina circola sulla strada a 100 km l'ora, qual è la velocità assoluta di questo veicolo? È chiaro che la sua velocità relativa, in rapporto alla strada che si suppone immobile, è di 100 km orari, ma per calcolare la velocità assoluta si dovrebbero sommare algebricamente ai 100 km all'ora la velocità di rotazione della Terra più la sua velocità di traslazione intorno al Sole più la velocità di traslazione del sistema solare verso la costellazione di Ercole, più la velocità di traslazione di tutta la nostra galassia verso altre galassie, più l'immensa celerità dell'espansione di tutto l'universo. Allora, qui chiaramente si entra in concetti, faccio una piccola parentesi, questa è uno spaccato della teoria della relatività di Einstein, che io ricordo a grandi linee, questo lo capisco abbastanza bene. E io ricordo anche quando studiavo in seminario con un bravissimo professore, Gian Don Gianfranco Basti, che è veramente una mente, credo che sia ancora vivo, veramente da un punto di vista, l'intelligenza di quest'uomo è stato veramente per me edificante, qualcosa di straordinario, anche la cultura, le cose che ho imparato. Quindi, allora, la macchina che va a 100 all'ora, va a 100 all'ora qui. Se io però considero semplicemente la dimensione Terra, ma come abbiamo già accennato la volta scorsa, la Terra non sta ferma, la Terra si muove. E come vedremo, perché li considererò tutti e due più avanti, dando anche i numeri, la Terra gira intorno a se stessa, la Terra gira intorno al Sole, ma non solo. Il sistema solare, questo per chi non lo sapesse, non è fermo, ma ha una velocità di traslazione verso la costellazione di Ercole. La nostra galassia, la Via Lattea, non è ferma, ma ha una velocità di traslazione verso altre galassie. E l'universo intero non è fermo, ma ha un moto di espansione. Quindi vogliamo andare a vedere quel 100 km orari, che è la velocità relativa, che noi percepiamo qui sulla Terra, cosa sarebbe in termini di velocità assoluta? Anche qui i numeri è meglio che non ci pensiamo, ok? Perché sarebbe un numero assolutamente incomprensibile. Questo è fondamentale, questo qui, amici. Cioè, riflettere su queste cose. Guardate, queste sono cose della fisica, non della metafisica, non sono cose teologiche. Ma voi immaginate, no, semplicemente avendo già questa percezione, cioè, l'uomo queste cose le sa oggi, un tempo non si sapevano. Ma sono cose oggettive queste qui, eh. Allora, riflettere su queste cose ci dà la percezione della nostra piccolezza e della nostra relatività, specialmente dinanzi alle cose di Dio. Guardate amici, io più passa il tempo, più veramente la cosa che mi mette, tra virgolette, paura, in senso evidentemente traslato e metafora, è quando vedo le persone sparare, ma che te spari? Specialmente sulle cose di Dio. Che spari? Noi siamo piccoli, dobbiamo stare sempre molto, molto, molto umili. Specialmente quando si entra in questi mondi e quando si entra in contatto con certi tipi di conoscenze che ci sovrastano, sono trascendenti. Devi stare calmo prima di dire che chiacchieri, che blateri. Aspetta, conta fino a 10, anzi fino a 10 alla decima facciamo, dai, non è un numero troppo grosso. Il risultato, riprendo la lettura, conclusa allegramente, sarebbe che la macchina, in rapporto all'immobilità assoluta e non in rapporto alla strada, che arbitrariamente abbiamo considerato come immobile, perché non è immobile, circolerebbe a migliaia e migliaia di chilometri al secondo, non l'ora. Non a 100 all'ora. Poi eventualmente nelle domande, cioè al termine della diretta, specialmente chi segue la diretta oppure nei commenti su Spreaker, su YouTube, guardate che su Spreaker si possono scrivere i commenti e i podcast. Non so se si possa fare anche su, non mi ricordo, su Google Podcast e su Spotify. E su Apple Podcast non credo, ma su Spreaker sì. Io posso vedere i commenti scritti su Spreaker. Credo anche sul sito web mio, credo. Vabbè. Quindi questo per cominciare di nuovo a ricalibrarci e a risituarci correttamente. Quindi dice lui. Ed io che avevo pensato che avevo pensato che eravamo prossimi al riposo assoluto. Non avevo mai immaginato che la Terra si muovesse tanto velocemente. Ed è così. Ti assicuro, disse per confortarmi, che nonostante la grande lentezza di questo paratempo, il fumo della sigaretta che rimane immobile, l'abbiamo già visto la volta scorsa, no? Quindi niente che si muove. Siamo molto lontani dall'immobilità completa, la quale del resto non è tanto temibile. L'immobilità non è lo stesso che il nulla. Tranquillizzati, non ti accadrà nessun male. Il nostro Dio ha permesso questo paratempo con te. Forse non hai fiducia nella divina sapienza? Bello, no? Stai ricevendo un regalo, gli stai dicendo, in fondo. Da parte del Signore. Se lui per fartelo ti mette in questa condizione, è state quieto, state. State quieto. Lui sa bene quello che fa. Sì, certo, risposi. Più per compromesso che per convinzione. Eppure, se ci muoviamo più lentamente della Terra, perché restiamo ai nostri posti? Come se ci muovessimo alla stessa velocità del pianeta. Più avanti, dice lei, intravederai la spiegazione. Per il momento ti rispondo con un esempio. La luce che entra dalla finestra si muove a 300.000 km al secondo. Questa è la velocità della luce. E nonostante ciò, il fascio di raggi luminosi, tu lo vedi fisso. Avete mai visto? Qui nella mia chiesetta ogni tanto, adesso è passato il periodo, ma in certi mesi estivi, a volte è successo, c'è anche un'omelia, io stavo facendo un'omelia una domenica, ci sono a volte dei giochi di luce con le aperture delle finestre che creano dei spettacoli meravigliosi. Guarda caso, proprio quando comincio l'omelia si era creata una convergenza di di luci che davano proprio sul mio volto. Io, tra l'altro, avevo il telefono vicino, me ne sono accorto. Dico, mo, tu pensa, dico, mo, sicuramente cominceranno a fare ricami che Don Leonardo è circondato di luce, quindi chi lo sa che sta succedendo. È un gioco di luce, è certamente una creazione di Nostro Signore, no? Niente di più. Però quella roba sembra fissa, sembra ferma. Quella roba sta viaggiando a 300.000 km al secondo. La Terra sta girando a 108.000 km all'ora, lo dirà tra poco, intorno al Sole. Eppure, qualcuno di voi avverte il brivido di viaggiare a 108.000 km l'ora? Ragazzi, cioè, gli aerei, se non vado errato, c'è pure un mio collaboratore che fa il pilota che mi corregge, dovrebbero andare intorno a 1.000 all'ora gli aerei, credo, ecco, perché la velocità, l'aereo supersonico adesso mi pare che l'abbiano messo in pensione, mi pare sempre, insomma, però va intorno a 1.000 all'ora, ma insomma l'aereo corre, eh. Le macchine di Formula 1, almeno le reminiscenze di quelle pochissime volte che ho visto qualcosa che non ho mai avuto grandi passioni per queste cose, però andavano a 300, 350 all'ora. Non lo so se mo saranno arrivati a 400, perché non sono un esperto. Ma insomma, una macchina di Formula 1, se uno ci sale sopra, te si addrizzano perché c'era tutti quanti i capelli. Ma capito 108.000 km l'ora? Quanti sono? Cioè, la macchina di Formula 1 per arrivare, cioè, 400 km l'ora, per 10 fa 4.000 km l'ora. Per 100 fa 40.000 km l'ora, quindi per arrivare a 108.000 km devi fare quasi moltiplicare la velocità della macchina di Formula 1 per 300. Cioè, non potremmo resistere a una cosa del genere. Eppure, io sto tanto tranquillo, guardate, io ho questa, il mal di testa non mi è mica venuto, eh. Sto parlando e sembra che sto tranquillo, sereno e disteso nella quiete della canonica, nelle quiete delle sere d'inizio autunno sermonetano. Allora, la stessa cosa, riprendo la lettura appunto, succede con la Terra che sta girando e sembra immobile. Le apparenze ingannano, ma un'altra cosa è nel tuo stesso corpo. Ma voi pensate che esiste la materia inerte? Cioè, allora, un minimo di cognizione. Queste cose penso che non ci voglia una grandissima cultura, perché si dovrebbero studiare anche alle scuole medie. E gli atomi? Gli atomi si muovono, non sono mica fermi. Lo spiega adesso. Nel tuo stesso corpo, gli elettroni dei tuoi atomi vibrano ad una velocità prossima a quella della luce. Un atomo si fa certi giri che viaggia quasi alla velocità della luce intorno al nucleo. Scusate, un elettrone. Sappiamo che ha fatto un atomo, no? C'è il nucleo dove ci sono i protoni e i neutroni e intorno ci stanno gli elettroni. Qualcuno di voi, noi per caso avverte che c'è stata tutta sta fibrillazione? Nelle nostre cellule, in tutte le cellule, ma anche nel tavolo che ho davanti a me, anche nel computer che ho davanti a me, perché gli atomi del computer, sono sempre atomi, pure se è materia non organica. E allora? Sono molto limitati i sensi corporali. La Terra, ad esempio, viaggia intorno al Sole, questo ve l'ho già anticipato io, alla velocità di circa 108.000 km all'ora. E nessun. Cipicchiao. E nessun mortale sente un così eccessivo movimento. Giusto? Dunque, se esclusivamente ti limitassi alla testimonianza dei tuoi sensi, cadresti facilmente in errore. Davvero non ti accadrà niente di male. Anzi, così potrò spiegarti meglio e potremo effettuare diversi esperimenti che, se le tue funzioni vitali fossero attualmente in atto, ti renderebbero infermo o perfino ti ucciderebbero. Capite perché, no? Cioè, se questi si stanno muovendo, cioè, se il cuore batte, cioè 60 battiti al minuto di media, giusto? Vuol dire che un battito ci mette a farlo un secondo, giusto? E quindi conseguentemente anche l'impulso che dà alla circolazione del sangue. Ma se io mi pongo a milionesimi di picosecondo, 101 fratto 130 mila miliardi moltiplicato qualche milionesimo, l'ha fatto il battito il cuore? No. C'è la circolazione del sangue? No. No. Quindi le funzioni vitali sono sospese. Altrimenti, spiega, non potresti assolutamente entrare in contatto con ciò con cui ti sto facendo entrare in contatto perché moriresti. Oppure ne usciresti fuori infermo. È importante riflettere su queste cose perché ci si devono aprire degli orizzonti. Quando noi stiamo dinanzi a queste cose qui, o apriamo la mente o è meglio che cambiamo canale, d'accordo? Non lo leggiamo proprio questo libro. Non lo leggiamo. Tanto non è pane, d'accordo? È una rivelazione privata, quindi si campa anche senza le rivelazioni private. Ti prendi il credo della Chiesa Cattolica, te lo tieni, quello basta per andare in paradiso, non occorre altro. Occorre il credo e occorrono poi le opere, osservare i 10 comandamenti e con la preghiera e con i sacramenti. Basta, non serve altro. Qui è un dono che il Signore fa a chi lo accoglie per ricevere tante cose belle e per formarsi convinzioni operative solide e massicce. Cioè, terminato questo libro, se una persona non gli è venuta una voglia immensa di andare in paradiso e ha capito quello che deve fare, quindi comincia a vivere come Dio comanda, è tutta fatica sprecata. Riprendo la lettura e ridiamo la parola a Riccardo. Un'altra sorpresa ancora. Le mie funzioni vitali erano sospese. E mo si agita, guardate, eh. Vuoi dire che non do più segni di vita? Allora sono morto. Mi rallegrai di questa conclusione, dice. Sono morto. Ale. Perché dopo aver intravisto il cielo futuro attraverso la bellezza di tenera amata, ancora non ha visto niente, ha visto soltanto la bellezza di questa creatura, già incominciavano ad essermi di peso gli attaccamenti mondani a questa vita mortale. Solo vedendo la bellezza di una creatura bassa in gloria, molto bassa, lo dice lei stessa. E quelli che staranno alti, quanto saranno belli? E la Madonna, quanto sarà bella? E l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo, quanto sarà bella? Riprende tenera amata. Mentre ti troverai in questo paratempo, lo chiama così, attenzione, scusatemi se sono pedante, para in greco, paratempo, vuol dire letteralmente presso il tempo, perché quello non è tempo. Perché è talmente infinitesimale che sì, assomiglia al tempo, ma molto alla lontana. Quindi paratempo, per questo che lo chiama così. Ecco, ci vuole da sapere un pochino di greco, no? Mentre sarai in questo paratempo, sentite, ve l'ho già anticipato, non palpiterà il cuore. L'avevo anticipato vi fa capire perché, perché uno legge e dice, ma com'è che non palpita il cuore? L'ho spiegato. Non circolerà il tuo sangue e non respirerai. La stessa cosa vale per il respiro, no? Io per fare un respiro ci metto del tempo. Cioè per fare un movimento di ispirazione e espirazione, che ci posso mettere? Un secondo, 2 secondi? Non lo faccio in un nanosecondo. Figuriamoci in un picosecondo. Figuriamoci in qualche milionesimo di picosecondo, no? Ora comprendi perché non si è mossa la corona di fumo della tua sigaretta quando tu credevi di soffiare su di essa. Allora che fa questo qui? Mi affrettai a tastarmi il polso. Se mette le mani Mo' alzo le mani così si vede nel video. Oddio, niente! Non riesco a capire. Come mai sono vivo, forse non più, e meno ancora come riesco a pensare se non ho segni vitali. Ed ecco un'altra cosa che qui dobbiamo andare a prendere gli scientisti stolti, diciamo così, e soprattutto i naturalisti, d'accordo? Quelli che pensano che le facoltà umane si svolgano esclusivamente attraverso il cervello e vanno a studiare, a vivisezionare tutto quanto il cervello, l'emisfero destro, l'emisfero sinistro, i lobi, la ghiandola pineale, dove starà l'anima. Sono anche filosofi negli anni passati hanno fatto questi cervellamenti. Allora, Theravada interviene e dice: quest'ultimo particolare ti dimostra che l'uomo non pensa col cervello, quantunque esso intervenga nel pensiero. San Tommaso d'Aquino ha spiegato benissimo che l'organo corporeo, in questo caso il cervello, fino a quando siamo viatori, interviene nel pensiero e nelle circostanze ordinarie del tempo e dell'istante presente in cui noi siamo legati, certo che interviene. Tant'è vero che se ti viene la meningite, che è una malattia del cervello, tu sembri scemo, ma non lo sei scemo. Quel poveraccio che ha la meningite non è scemo, perché quello potrebbe avere un'intelligenza lucidissima. Fino a quando sta dentro il carcere del corpo, però, sembrerà scemo. E invece c'è gente che la meningite non ce l'ha, e invece è scema sul serio, d'accordo? Perché ha abdicato l'uso dell'intelligenza. Peccato mortalissimo. Poi in questi tempi, mortalissimo, mortalissimo, abdicare l'uso dell'intelligenza. L'uomo non pensa col cervello, quantunque esso intervenga nel pensiero, ma soprattutto con l'anima spirituale. L'intelligenza è una facoltà dell'anima spirituale, che non coincide con l'organo corporeo. Ne è distinta, anche se forma una unità sostanziale con il nostro corpo. La biologia cosmica, introduzione ad un altro concetto, noi conosciamo la biologia terrestre. Ah, io ho mia sorella che è biologa, ti racconta, ti spiega tutto quanto, ti spiega, vuoi sapere che cosa, come è fatta una cellula, come funziona la circolazione, come è fatto il DNA, come è fatto l'RNA, ti spiega tutto, ti spiega, cosa sono gli enzimi, le proteine, tutto quanto ti spiega. Ma la biologia cosmica ha delle leggi diverse da quella terrestre. D'accordo con l'onda temporale dove si sia situato l'essere vivente. Cosa sta dicendo? Le leggi della biologia terrestre in questo paratempo non valgono. Qui dobbiamo regolarci con la biologia celeste o cosmica. La vita umana in qualsiasi luogo e tempo dell'universo, perché questo sarà il nostro orizzonte, l'universo, il paradiso, ricordiamolo, non è una mega cattedrale dove si sta rinchiusi, perdonatemi, a cantare le lodi alla Santissima Trinità. Le lodi alla Santissima Trinità non serve stare, sono ininterrotte da parte dei beati. Ma gli spazi sono sconfinati, è grande tanto quanto è grande l'universo, il paradiso. E anche di più. La vita umana in qualsiasi luogo e tempo dell'universo si sostiene mediante le energie. La sola differenza è che nella frequenza del tempo normale terrestre, quindi sia chiaro questo concetto, eh? Noi qui viviamo in una condizione ben precisa da cui non possiamo muoverci. Questo ne è uscito perché gli ha fatto un regalo l'Altissimo e Stenner Amata in continuazione lo tocca, poi spiegherà perché lo tocca, perché non ci potrebbe stare in quella dimensione. In parte supplisce la divina potenza, in parte suppliscono quelle comunicazioni di calore e di energia che Stenner Amata gli dà toccando la mano. Se no non ci potrebbe stare. Non è la sua dimensione fino a quando è viatore. Nella frequenza del tempo normale terrestre l'energia si prende dai cibi. Noi prendiamo l'energia dai cibi e dall'ossigeno dell'aria. Vedete che questo sta facendo una lezione, tra l'altro, spettacolare. Cioè, ha parlato di fisica, ha parlato di astronomia, sta parlando di biologia, di tutto. Penso che sia una cosa bella anche per persone magari non sono molto molto colte, molto molto istruite. Così fanno, come dire, un rudimento, perché tutte queste cose sono opere dell'Altissimo, eh. Quindi noi prendiamo in questo tempo terrestre al ritmo dell'orologio scandito dai secondi. Questa è l'unità di misura temporale di base che noi abbiamo, il secondo. Cibi e ossigeno dell'aria. Ma nei paratempi lenti, da dove lo prende l'energia vitale? Direttamente dall'ambiente. Dalla materia energia ambientale e dall'ambiente biologico interno. Non serve né respirare né mangiare. Se ci trovassimo nella frequenza normale del tempo della Terra, sia tu che io avremmo bisogno di respirare e di nutrirci. Altra domanda. Allora in questo paratempo il mio organismo sta effettuando l'assimilazione e l'eliminazione? Certo, risponde Stenner Amata. Acquista l'energia vitale dal tuo ambiente biologico interno, ma la escrezione è quasi nulla. Capiamo che significano questi termini, no? Assimilazione e eliminazione. Anche il processo di espirazione è eliminazione dell'anidride carbonica. Ci sono poi i processi di escrezione biologici, non c'è bisogno che li nomino, no? L'urina, altro, il sudore. Se tu restassi in questo paratempo l'equivalente a 10 anni, elimineresti appena alcune gocce di sudore. Lo stesso succede con me, ma in un modo sommamente perfetto. Ciò, attenzione, anche qui altri concetti spettacolari, che ci danno un pochino un'idea di come funzionano le cose altrove. Ciò è dovuto a che non si formano scarti chimici, ma viene utilizzata totalmente l'energia ricavata dagli atomi. Anche qui, purtroppo, un minimo, cioè se noi non sappiamo che l'atomo è la particella elementare della materia, ma che è anche il magazzino dell'energia, perché la bomba atomica è così devastante? Speriamo che Dio si scampi che un argomento del genere debba diventare ai noi di attualità. Perché è una devastazione? Perché sprigiona l'energia dell'atomo. Avete visto che cosa combina una bomba atomica? Tutti hanno visto i filmati in televisione di Hiroshima e Nagasaki. Quindi non si formano scarti chimici perché viene utilizzata totalmente l'energia ricavata dagli atomi. Ricorda che l'atomo è un grande magazzino di energia. Pensiamo anche alle centrali nucleari, che adesso sono bandite. Io è meglio che non dico, perché non voglio fare politiche o cose come la penso in questa sede. Però siccome lui capisce, intuisce subito, dice: ah, questa è bella. E adesso risulta che sto funzionando come un reattore atomico. Il reattore atomico è semplicemente una centrale nucleare, quindi una fonte dove si produce Energia atomica. Bocca mia, se ci fossero in Italia le centrali nucleari, tutta quanta adesso la situazione delle problematiche energetiche che si prospettano, qui a pochi passi da me c'è un reattore, c'è una centrale nucleare a Torre Astura, sull'Agropontina, è stata chiusa dopo la psicosi post-Chernobyl. Se ci avessi una cosa di quel genere, possono tutto quello che vogliono. Non succederebbe niente. Vabbè. Teneramata riprende, dice, funziona come un reattore atomico? Funzioni molto meglio, perché utilizzi alcuni atomi, ma li disintegri totalmente e non parzialmente, come succede nelle pile nucleari. Ci dà un'altra informazione anche a chi non sa come funziona una centrale nucleare. Cioè, i processi di fissione e di fusione nucleare non disintegrano totalmente un atomo, ma solo parzialmente. Eppure si produce una mole di energia spaventosa. Peccato che non ti sia possibile godere il piacere che nel cielo, sentite che, causa la realizzazione delle funzioni biologiche regolate dall'anima. Attenzione però, qui sulla Terra si sente appena un leggero benessere quando tutto l'organismo funziona bene. Ma nel cielo la stessa cosa causa immensi piaceri che accrescono la nostra felicità accidentale. Qui, per capire bene questa cosa, è necessario, io l'ho avuta questa grazia, d'accordo? Che il Signore ci mette in condizioni di ottima salute e ottima forma fisica. Qui non è che ci sei. La prima dipende molto dal Signore, anche se anche noi dobbiamo fare attenzione. La seconda dipende da noi anche, perché io parlo per esperienza, le condizioni di sovrappeso più o meno consistenti non ti fanno stare bene. Non stai bene. Se tu raggiungi un equilibrio buono da un punto di vista di peso corporeo, ragazzi, io testimonianza, ho 51 anni appena compiuti, io mi sento meglio fisicamente di quando avevo 20 anni. Quindi c'è ragione e questo, cioè questo benessere collegato al funzionamento perfetto per ora, il Signore domani potrebbe pure ammalarmi, quindi non c'è, però al momento tutto sembra funzionare alla perfezione e sto bene. L'ho detto, le persone che mi conoscono lo sanno, lo dico in continuazione, per questo che sono matto, io non ritorno indietro, farò di tutto per non riprendere manco mezzo chilo di peso, ma non per problemi di linea. È un problema di benessere da cui poi traggono giovamento tutte le nostre attività. Ve lo assicuro. Il sonno, che tu dormi benissimo, ma dormi poco. E, come dire, la produttività mentale, l'agilità nei movimenti, l'organizzazione del tempo. Questo significa, guardate che anche questo, io l'ho imparato, e adesso lo dico con certezza, anche questo significa stare nella volontà di Dio. Pensate a una persona che è iperobesa, che va a più 30, va a più 40, che non c'è, ma come campa quella lì? Malissimo. È volontà di Dio quella? No. Stare nella volontà di Dio quella persona? Forse in tutto, ma non in quello. 100%, eh? Scusate la digressione, tanto non ci abbiamo fretta, credo che non ci abbiamo fretta. Io almeno non ho fretta perché così, rileggendo in questo modo, me la sto rigustando pure io. L'ho letto 7-8 volte questo libro qui, quindi perché come tutte le cose belle. Allora, ma nel cielo la stessa cosa causa immensi piaceri che accrescono la nostra felicità accidentale. Quindi nel cielo questo benessere collegato alla perfezione assoluta del funzionamento dell'essere umano, causa immensi piaceri che accrescono ulteriormente la gloria occidentale, il sentirsi bene. Che è una cosa divina. Quante meraviglie dell'universo ignoro, pensai. Ma che poco è quello che la scienza conosce, malgrado ci avviciniamo al XXI secolo. Chi mai avrebbe immaginato che il corpo umano fosse capace di causare tanta felicità o di realizzare la fissione degli atomi? Capite perché? Se questa donna gli dice: guarda che tu prendi la tua energia dal tuo interno, riprendo l'espressione, mentre direttamente dall'ambiente, dalla materia energia ambientale e dall'ambiente biologico interno, energia, per produrre energia. Dall'ambiente biologico vuol dire che l'ambiente biologico interno, come questo ha capito bene, funziona come una centrale nucleare. Realizza la fissione degli atomi senza che tu lo sai. Ovviamente, quando si entra in quei paratempi. Adesso, nel mio organismo, io che sto legato al secondo qui, non c'è nessuna fissione nucleare. Non c'è nessuna produzione di energia interna, perché io devo mangiare, devo respirare. Per prendere l'energia, mangiare troppo e non troppo spesso, ma bisogna mangiare e respirare per prendere energia. Mangiare non troppo e non troppo spesso. Va bene. Tenera amata, come posso disintegrare atomi se non me ne rendo conto né io saprei quali devo fissionare? Ed ecco un'altra bellissima verità. Stupenda. La tua coscienza non lo sa. È vero, ma la tua anima spirituale lo sa. Lo sa molto bene e lo può realizzare perfettamente, così come conosce e coordina la digestione, la filtrazione, la regolazione, l'assimilazione, senza che se ne renda conto la tua coscienza. Fermi tutti. O ci avete mai pensato? Cosa c'è dietro il sistema digerente? Io tante volte ho detto che mi piacerebbe enormemente riprendermi i libri di anatomia, di biologia, di medicina. Io vorrei andare, io me lo ricordo grosso modo come funziona il processo digerente, no? Quindi la trasformazione del cibo da quando uno mangia, arriva nello stomaco e poi ci stanno tutte quante le fasi successive prima che diventa energia, no? Questo è un processo perfettissimo, ma qualcuno di voi ci ha mai pensato? Ah no, funziona da solo. Da solo di che? Lo sta facendo la tua anima, quel processo. Gli scienziati non lo sanno. Pensano che sia una cosa che l'organismo fa da sé. Ma non è così. Digestione, la filtrazione, l'assimilazione, no? L'assimilare. Se la tua coscienza psicologica dovesse controllare tutta l'attività del tuo organismo, tu non avresti il tempo sufficiente per dirigerne bene, nemmeno una sola. Vedete in questo l'anima come assomiglia a Dio? Capite cosa significa che l'anima regola tutte le nostre funzioni biologiche, a partire dal battito cardiaco. Sentite l'esempio. Per esempio, se la tua intelligenza e la tua volontà dovessero regolare i movimenti del cuore, ma tu non riusciresti nemmeno a dormire, né ad attendere a nessun'altra cosa, per essere attento ad accelerarli o a ritardarli a seconda delle circostanze. Chi di voi è appassionato di elettronica? Adesso esistono gli smartwatch, no? Divertitevi. Andate a mettere la funzione del battito cardiaco, poi cominciate, no? E se tu stai fermo, stai sempre intorno ai 60 battiti al minuto, ma già se cammini, 65, 70. Se fa un po' di movimento un pochino più intenso, arrivi a 80. Se poi cominci a fare attività fisica, 90, 100. Poi se vai in attività cardio, 100, 110, 120, 130, anche 140, 150, se uno comincia a correre. Di brutto. E chi è che regola questa cosa? Come fa l'organismo a capire che se io sto adesso cominciando a correre, che sto a sudare, e anche al tempo stesso la sudorazione è esattamente opportuna, più avanti parla anche di questo, tenera amata. E al tempo stesso muovere tutti quanti i movimenti degli arti, tutto quanto il sistema nervoso, i muscoli. Ma vi rendete? Ma c'è capito? Operazioni simultanee e contemporanee. Chi di voi è capace? Io adesso sto parlando, ma se io per esempio mi metto a fare un'altra cosa, quindi se cominciassi che ho il telefono qui sotto, no? A parte che ve ne accorgete, chi vede il video, a guardare l'occhio là sotto e magari mentre sto parlando dico ma fammi un attimo dare un'occhiata a sta mail così penso a quello che devo rispondere, non farebbe bene a nessuna delle due cose. Voi capireste che io mi sto distraendo perché non lo posso fare. Perché la nostra attività cosciente è limitata. Ma l'anima è immagine di Dio. Ma Dio, cioè, ma Dio quante cose fa in contemporanea? Allora, rinunciamo. Ma proprio rinunciamo, rinunciamo. Cioè, se uno si vuole divertire, ogni tanto ci faccio divertire i ragazzini, no? Cioè, Dio è capace di stare attento. Secondo il nostro modo di pensare, quanti siamo adesso? 7 miliardi? Lui sa perfettamente e vede con scienza di visione infallibile tutto quello che secondo dopo secondo stanno facendo 7 miliardi di persone. Ma l'ho detto la volta scorsa, vede anche le cose in scienza di visione, quindi quello che si potrebbe fare e che non si fa. Cioè, ma di che vogliamo parlare? La nostra intelligenza cosciente, quindi che funziona nel tempo normale, cioè è assolutamente impossibile, ma neanche lontanamente rappresentarsi una cosa del genere. Eppure la nostra anima questo lo fa, nel piccolo. Allora Riccardo dice: è vero. Sarebbe molto complicato coordinare volantariamente la sistole con la diastole, sapete, no? Sistole e diastole sono i due movimenti del cuore, no? Per chi non lo sapesse. Tun, tun, tun, tun, sistole, diastole, così è, no? E poi la pressione arteriosa? Avete visto quando si abbassa o si alza la pressione? Chi soffre di queste cose tribola. La pressione arteriosa è giusta? Chi la tiene sempre 80 e 120? O si sforza di tenerla in quel modo, insomma, salvo che non intervengano patologie organiche? L'anima. L'anima spirituale. Allora, riprende tenera amata. Il nostro Dio ha tolto alla tua coscienza tutti questi noiosi problemi. Di misurazioni, battiti, pressioni. Nervi, ecco, attività cerebrali. Non ti preoccupare. Queste ti sembra che vadano in automatico. Non vanno in automatico, se ne occupa qualcun altro. Affinché. E perché ti ha lasciato in pace il nostro Signore? Ecco una cosa a cui dobbiamo fare molta attenzione. Affinché tu applichi il tuo intelletto e la tua volontà a compiere i suoi disegni su di te, ad amarlo e servirlo mediante la fede e le opere di autentico amore e di carità. Questo c'è? Catechismo esempio decimo. E invece gli esseri umani che ci fanno con l'intelletto? Che ci fanno con la volontà? Cosa fanno dalla mattina alla sera? Io a pensare alla classica persona senza Dio, a me viene l'angoscia solo al pensiero. Una persona che non rivolge mai il pensiero a Dio. Non prega. Non lo ama, non lo serve, non c'ha la fede. Non compie le opere sante. E che cambia fa? Io solo immaginarmi una cosa del genere, proprio si piomba nell'orrore assoluto. L'anima sa molto bene come svolgere ogni funzione biologica e come coordinarle tutte, anche quelle psicologiche. Quali sono le abitudini che automatizzano la condotta? Perché l'anima presiede anche alle funzioni psicologiche. L'anima sa vivere anche in cielo e in qualsiasi frequenza ondulatoria del tempo, l'anima spirituale. Come pure sa viaggiare a velocità fantastiche, attraverso le pareti, dominare le forze della natura. Il mortale possiede in germe ciò che dovrà godere della gloria futura. Boh, mi viene in mente quella famosa frase di San Tommaso. Si vergogni dunque chi ha ricevuto questa roba, chi può fare queste cose e butta la vita in mezzo a inutilità quando va bene, quando non siano schifezze e porcherie di ogni genere. E mo riprende Riccardo, dice, ma se la mia anima sa come fissionare gli atomi, ma allora perché non lo fa una volta per tutte? Mi risparmierebbe il lavoro quotidiano, le molestie della metropolitana e persino le indigestioni. Domanda, per carità, comprensibile. E dice, eh no, figlio mio, qui che sarebbe troppo facile. Dice, lo sa fare, ma non lo realizza per comando divino. Non è questo il tempo di fare queste cose. Perché in questo tempo sei tu che devi imparare a mangiare bene e quanto è necessario. Perché la gola è un vizio capitale. La gola è un vizio capitale, amici miei. Io lo sto rielaborando in questi anni. La gola è un vizio capitale. E non peccare di gola è merito. E lo devi fare tu. Con la tua coscienza, col tuo intelletto, con la tua volontà e con i tuoi sforzi ascetici regolati dall'intelletto e dalla volontà. Non è una cosa facile che tu ti alzi da tavola tutte le sante volte e non sei mai sazio, mai. Eppure, un tempo tutti lo facevano, perché la regola monastica e dei conventi era: non ti devi mai alzare da tavola sazio. Ah, se fai quello non c'è bisogno poi di fare le diete o dei piani nutrizionali, perché semplicemente se non ti alzi sazio non ti ingrasserai mai. Arrivare alla sazietà in questa vita significa che sicuramente assunto un apporto calorico superiore a quello che ti serve. Dice, però che fatica. Lo so, figlio mio, ma qui si tratta di andare in paradiso. Ecco perché i santi dicevano, santo curavo d'Arsela terribile, a tavola comincia la vita del corpo e finisce quella dell'anima. Lo sa fare, ma non lo realizza per comando divino, perché sta appena meritando con le sue opere buone la gloria eterna. E poi perché a causa del peccato originale, questa è una conseguenza, questo è un castigo del peccato originale. Ogni essere umano deve nutrirsi per mezzo dell'onesto lavoro e sopportare cristianamente le prove che il nostro Dio possa mandargli. Inoltre, la tua anima non si era mai prima ubicata in un paratempo. Quindi, fino a quel momento, l'anima di Riccardo non aveva mai fissionato un atomo, mai. Ma appena lo mette in condizione di farlo, questa subito dice: vai, tranquillo, lo sa fare. Ma non lo fa qui, perché non è questo il tempo. A causa del peccato originale, dobbiamo meritare con le buone opere la vita eterna. E quindi queste cose non si possono fare qui. Attenzione a quello che dice Riccardo, eh. Dice, la tua anima non era mai prima ubicata in un paratempo. Dice, lui risponde, le è bastato collocarsi in esso, attenzione, per imparare Non per imparare, risponde Terra Amata, ma per esercitare ciò che già anticipatamente sapeva fin da che il Signore la creò. Dice, mazzo, ha imparato subito. No, ha usato una facoltà, una funzione che già c'aveva e che qui su questa terra è semplicemente non utilizzata, perché non è ora di farlo. Prosegue, l'animo umano è sapientissimo. Guardate, tutti voi che mi state ascoltando, queste cose valgono per tutti, eh? Capito che cosa ti porti dietro, che cosa ti porti a spasso? Che roba che è la tua anima? L'anima umana è sapientissima e effettua la cosa principale, il pensiero e l'amore. E ne ha il tempo terrestre sufficiente per guadagnarsi onestamente la vita, educare se stessa, compiere tutti i suoi doveri, divertirsi sanamente. Non è peccato divertirsi sanamente, affatto. E riposare. I divertimenti leciti non sono peccato. Anzi, ne abbiamo bisogno. Con la virtù cardinale della temperanza, ciclo di catechesi, vizi e virtù, c'è l'eutrapelia, la moderazione nel gioco e nei divertimenti. Ma non è peccato. L'anima deve imparare a calibrare il tempo terrestre, quindi guadagnarsi onestamente la vita, educare se stessa, compiere tutti i suoi doveri, divertirsi sanamente e riposare. Dice Riccardo, non c'è dubbio che l'anima è un grande mistero. Risposta? Sì, per i viatori è un enigma, non per i beati. Durante la vita mortale l'anima lavora giorno e notte in silenzio. Non molesta né distrae l'attività della coscienza, sia nella veglia che nel sonno. Soltanto quando le si presenta qualche problema grave, sentite che bello, insolubile per lei, che non ha ancora i poteri della glorificazione, avvisa la coscienza per mezzo di un malessere o di dolori, affinché intervenga l'intelletto e risolva la difficoltà. Quando stiamo male, per esempio, no? Attenzione, l'anima non può risolvere alcuni problemi perché non ha ancora i poteri della glorificazione. Si trova dinanzi a un problema. Avverte l'intelletto, ci devi pensare tu, perché risolva la difficoltà. Ma sentite che, avete visto che roba, abbiamo quasi finito, ce la facciamo, sì. Tenera amata, se non ho segni vitali in questo paratempo, come mai posso muovermi sebbene con fatica? Ah, speriamo di farcela, che questo è un altro argomento. È molto semplice, ogni movimento materiale ha bisogno di energia. I pellegrini mortali, questo lo sappiamo, la ottengono dai loro cibi, dopo molti lavori fisiologici di digestione, assorbimento, circolazione, assimilazione, eliminazione, eccetera. Tu invece, in questo paratempo, acquisti l'energia, attenzione, dal plasma sanguigno e dalla linfa del tuo organismo. E per ottenerla, il nostro Dio ti aiuta mediante lo sfioramento delle mie dita sulla tua mano. Questo per quanto riguarda l'energia che viene dall'ambiente. Noi beati invece prendiamo l'energia direttamente dall'ambiente dove ci troviamo. Luce, calore, elettricità, forze gravitazionali ed altre energie che dopo ti dirò. E inoltre spesso mangiamo dei cibi squisiti, anche se di questo non ce n'è bisogno nel cielo. E guai a chi si scandalizza di queste cose, che pure questo mi è toccato sentire. Tenera amata non sta dicendo che il paradiso è il paradiso dei musulmani, dove ci stanno tutti quanti i piaceri di questo mondo, ma che ci stiano cibi squisiti, anche se dico. Va benissimo che ci stiano. Squisiti. Cioè che le cose più buone che ci possiamo mangiare sul pianeta Terra cominciamo a industriarsi a seconda dei gusti. Scampi, mazzancolle, aragoste, astici identici. Funghi porcini. Sono niente in confronto a... Poi vedrete quando parla dei liquori celesti. Per il momento non capii come beati prendevano l'energia. Poco dopo mi resi conto del loro immenso potere sulla materia e le forze naturali. Credo che incominciai a intravedere la punizione divina sull'umanità peccatrice. Vedete? L'interdizione post-peccato originale. Decisa in parte da Dio, questo è il regime. Dopo il peccato, questo è il regime. Ce lo siamo andati a cercare e ce lo teniamo. Mangerai il pane col sudore del tuo volto. Sono così abituato a lavorare che la mia occupazione mi sembrava normale, abituale, ma incominciavo a intuire, bravo, che la stanchezza del dovere quotidiano è qualcosa che Dio non voleva per l'uomo. Dio non vorrebbe che noi lavorassimo e ci stancassimo. Non era questo. Infatti, mangerai il pane col sudore della tua fronte, è sentenza pronunziata dopo il peccato originale, non prima. Intravedevo che la fatica del lavoro umano, la malattia e la morte sono dovute non alla volontà divina, ma al peccato dell'umanità. E mi sentii molto colpevole. Vedete le conoscenze operative? E mi sentii molto colpevole di cooperare col mio apporto di malvagità al peccato del mondo. Benissimo, benissimo. Cominciamo a raccogliere un po' di frutti dall'esperienza con Tenera Amata. Benissimo. Ti devi sentire in colpa. Tutti quanti no. Ma sapeste quanti pianti che ci dobbiamo fare? Perché è colpa anche nostra, eh? Non è mica colpa soltanto di Adamo e di Eva, eh? Non bisogna soltanto mandare gli accidenti, a parte che non si devono mandare gli accidenti che sono anime beate. Ma è anche colpa nostra. Tutto quello che di sgradevole, di gravoso c'è in questo mondo, noi lo abbiamo creato, non Dio. Dio ci dà la grazia di trasformarlo in bene e addirittura in fonte di merito, in salvezza. Ma Dio non l'avrebbe voluto. Ci lasciamo con questa bellissima cosa. È stata una bella conversazione oggi, eh? Abbiamo conosciuto tante bellissime cose della nostra anima, eh? E tante bellissime cose. Cominciamo a intravedere lo stato di interdizione in cui ci troviamo e prepariamoci a vedere come sarà la gloria occidentale quando questo stato di interdizione è finita. Ma sullo sfondo, come molte delle cose che si vivono nell'aldilà, almeno in parte, si sarebbero vissute nell'aldilà se non ci fosse stato questo botto, questo gap, il maledetto peccato, che è l'unica causa e radice di tutti i mali, fisici, psichici, morali e spirituali. Bene, amici, ci vediamo se Dio vuole. La prossima settimana, Dio vi benedica, la Santa Vergine sempre vi protegga. E a presto! Ciao, il mio nome è Giada, sono una wellness coach e la mia missione è dare consigli per migliorare la tua giornata. Ecco la pillola di oggi. Scrivi su carta i compiti ancora da completare, aiuta a portare ordine e a gestire meglio le energie. E se vuoi prenderti un momento tutto per te, c'è Yakult Light, con la vitamina D per la salute di ossa e muscoli e 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande missione. La vita è un viaggio fatto di scelte, ma almeno per il carburante non dovrai più scegliere tra speciale e standard. La rivoluzione DP inizia con Optimo, il carburante premium al prezzo del normale. Ottimo, la scelta è solo una.